dinosauri, il tuo febbraio in Darsena a ripescarti lo xilofono. Ti è rivestita con una tuta da scheletro e avevi sempre 39 di febbre. Da Gietà siamo usciti dai cieli di GP. E like striking door, like striking door, non guardarmi mentre ballo. Tu lo sai quanto è grasso l'universo. Non mi rispondere e urla scocciata. Avrei voluto essere stata una coccinella sulle tue ginocchia. Io so sfiorire nel fiore degli anni. Se vuoi ti insegno, ripeti con me. La fantasia è il nostro piccolo libero carcere colorato. Genova scara bocchiata penna sulla tua caviglia. Ho baciata mentre dormivamo lo skin nella cabina telefonica. Puccia la tenebra nello Starbucks, puccia la tenebra nello Starbucks. Gli autoscontri sul mar mosso, i fiori alpini nel popcorn, le fisarmoniche, la quercia e le ruote panoramiche. Sulla facciata dell'istituto d'arte, stato assassino, stato celerino.